mai scritto ancora di tornar. Io t'ho detto sì, ritornerò. Grande il desiderio di poter sognar dove il nostro amor sbocciò. Voglio tornare a Napoli, voglio tornar da te. Sento che non so dimenticare quelle sere in riva al mare quando tu dicevi a me: t'amo con tutta l'anima, t'amo con tutto il cuore. Tu per me sei sempre l'incantesimo, l'eterna e dolce musica del mio sincero amore. Solo accanto a te potrà brillare il sole e con le tue parole quel sogno rivivrà. Voglio tornare a Napoli, voglio tornare da te. Sotto quell'azzurro cielo limpido potrai così rivivere l'amor vicino a me. Tornare a Napoli, voglio tornare da te. Sotto quell'azzurro cielo limpido potrai così rivivere l'amor vicino a me.